Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. You ain't nothing but a hound dog. Buongiorno, buongiorno, 121esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È domenica 27 ottobre 2013 e siamo eroicamente in onda da marzo 2012 per la liberazione animale, che ci interessa perché è giusta e che ci riguarda essendo noi, in fondo, animali umani. Mentre stiamo andando in onda si sta svolgendo a Firenze, in piazza Santo Spirito, l'evento Perché la caccia è fuori dalla storia. Si tratta di una piazza tematica con i banchetti di una vasta pletora di associazioni che resteranno in piazza fino alle ore 18 di stasera per dare ai cittadini tutte le spiegazioni e tutte le risposte sulle ragioni del no alla caccia. Parallelamente, in via Santa Monaca, nella ex chiesa di Santa Monica, si svolge un convegno con relatori che si succedono su tutte le tematiche correlate alla caccia, dal business delle armi agli effetti della violenza sulla psiche umana, dalla limitazione al godimento della proprietà privata, alle teorie scientifiche che dimostrano i danni ecologici della caccia, le morti anche umane legate all'attività venatoria, eccetera, eccetera. Questo è un tipo di evento che non si vedeva da parecchi anni a Firenze, forse dai tempi del referendum contro la caccia del 1990, che, lo ricordiamo, non raggiunse il quorum per pochi punti, votò infatti il 43% degli aventi diritti, ma regalò un risultato plebiscitario all'anticaccia, nel senso che più del 92% dei votanti votò a favore dell'abrogazione della legge sulla caccia. Invitiamo quindi tutti gli animalisti all'ascolto a venire in piazza Santo Spirito oggi per rilanciare questa sacrosanta battaglia. Ah, dimenticavo, chi non potrà raggiungerci potrà seguirci attraverso i social network. Per tutta la durata dell'evento, quindi dalle 10 alle 18, cercateci su Twitter, cercateci su Facebook e tenete d'occhio il nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Per la rubrica Visti da vicino, gli incontri con gli altri animali, incorniciamo questa volta la foto di Dodo, un cane maschio incidentato che a seguito dell'incidente ha perso l'uso delle zampe posteriori ed è diventato anche incontinente, sia urinario che fecale. La situazione di Dodo, a dirla così, può sembrare impossibile, proprio ingestibile da affrontare, un sacrificio inenarrabile. Ma Francesca, l'umana che lo ha adottato con entusiasmo, ci racconta che le cose non stanno esattamente così. Dodo ha un pannolone e un calzino perché ha probabilmente avuto un incidente, quindi ha problemi a camminare con le zampe dietro. Che è successo a Dodo? Dodo più o meno 5-6 anni fa è stato investito in Sicilia e a seguito dell'investimento ha perso l'uso delle zampe posteriori ed è un incontinente sia urinario che fecale. E usa il carrellino per muoversi. Ora lo stiamo vedendo senza carrellino e si muove lo stesso, cioè si trascina dietro la sua parte posteriore, però è molto vivace, quindi va come un treno. Sì. La gestione quindi com'è? Un quarto d'ora al giorno, 5 minuti la mattina, 5 minuti a mezzogiorno, 5 minuti la sera. Cambiare il pannolino e lavarlo. Insieme a Dodo vivono anche 5 gatte paralizzate che vivono da noi. Io sono una volontaria dell'associazione Diversamente Gatto, che ci occupiamo insomma di animali disabili, e Dodo è arrivato invece tramite il gruppo Spillo a casa nostra e ce ne siamo innamorate. Diciamo due cose sul gruppo Spillo. Di che cosa si occupano e come lo fanno? Allora, le volontarie del gruppo Spillo si occupano del riscatto dei cani nei canili, sono autotassate, nel senso che ognuno dà una quota per poter tenere in casa e famiglie questi cani, per evitarli comunque anni e anni di canile, perché purtroppo la realtà del sud è una non sempre una bella realtà, perché c'è molto randagismo e sovraffollamento nei canili. Il gruppo Spillo in che città si muove? In tutta Italia. E Dodo da che parte d'Italia veniva esattamente? Da Trapani. Da Trapani. Quindi tu come sei entrata in contatto con Dodo? Sono stata contattata dal gruppo Spillo, perché sanno che mi occupo di animali disabili, e è arrivata a casa mia. E com'è? Che personalità ha? Molto, molto forte. È un ruffiano, ecco, ti compra come nulla e ti fai dispettini se non lo fai dormire sul letto, perché lui dorme sul letto, mangia a fianco al tavolo, è più che un bambino. Sembra divertirsi parecchio, se ne va in giro, prende tutte le carezze di cui sì, ha bisogno. Sì, sì. Ultimamente Dodo ha subito un intervento. Sì, gli è stato fatto la riduzione del moncone, era venuta una piccola infezione e allora l'abbiamo ridotto. Per questo non ha il carrello, perché normalmente lui all'esterno si sposta col carrello, però deve tenere il moncone basso, non alto, e quindi... In questi giorni gliel'avete tolto. Un mese senza, poverino. Un mese. Te da dove vieni? Io abito vicino Alessandria. Quindi sei venuta appositamente per il Mi Veg? Sì, siamo vegan da 12 anni, io e il mio compagno. E avete una passione per gli animali disabili? Sì, ospitiamo anche cani anziani. Abbiamo 9 cani, galline destinate al macello e anche dei gatti disabili. Vivete in un appartamento o avete un esterno? Una cascina. Un posto ideale per degli animali. Come è nato questo tuo amore per gli animali disabili? Non direi per caso, semplicemente un giorno ero dal veterinario e c'era una donna davanti a me che aveva un cane di 15 anni che per l'età era diventato incontinente e lei lo voleva portare a sopprimere. Io non avevo pace perché non riuscivo a capire il perché. Dopo 15 anni di amore, mettere un punto solo per un'incontinenza. Alla fine il cane non è stato soppresso perché aveva venuto via a casa con me. E da allora pian piano sono arrivati, insomma faccio anche le colonie, quindi mi capitava il gattino cieco, il gattino tripode, e poi sono arrivati proprio gatti paralizzati o con vesciche neurologiche da premere. Che differenza fa avere o non avere un carrellino? Fa tanto. Il carrellino, allora, nel gatto non serve a nulla perché sono autonomi anche senza carrello. Nel cane lo aiuta negli spostamenti, perché adesso Dodo si può muovere perché comunque c'è il pavimento e tutto. Forse il cemento si crea delle lesioni, serve il carrello. Lui non è il primo cane che abbiamo disabile, abbiamo avuto prima di lui un cagnolino adottato al canile di Torino, sempre paralizzato, e invece la Molly, che è adottata da anziana, a seguito di un ictus era rimasta tetraplegica, quindi era allettata, però l'abbiamo tenuta fino all'ultimo, l'abbiamo curata, imboccata, lavata e tutto, ed è morta a 19 anni, tutto sommato una buona età, e lui invece ne ha 7. Ancora una lunga vita davanti, da vivere, sì. Speriamo bene così. Sì, sì. Grazie. Di niente. Bicycle, bicycle. Bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Antegnate, piccolo paese della bassa bergamasca. È questo il punto di partenza della seconda biciclettata organizzata dal coordinamento Liber Selvadec, Leggi Liberi e Selvatici, sabato 19 ottobre contro gli allevamenti di visoni. Un corteo a due ruote che ha percorso in lungo e in largo le province di Bergamo e Cremona, ormai trasformate in territori di sfruttamento degli animali, e che ha visto la partecipazione di una decina di bikers, con il contributo, non da poco, di una valorosa mini attivista con tanto di campana e fischietto. Certo, mi sarei aspettata una massa critica più cospicua, ma lo sparuto gruppo è riuscito, nonostante il numero ridotto, a rallentare per quasi mezza giornata il traffico locale, facendo sentire la propria voce e la propria rabbia. Campanelli, fischietti, megafoni, perfino piccole campane tibetane. Ogni mezzo è stato utile per spezzare quel silenzio dietro ai muri degli allevamenti, dove sono torturati ogni giorno centinaia, migliaia di animali. Via, si parte! Critical Mas si avvia verso il comune di Antegnate e poi in un pericoloso slalom tra le macchine lungo la provinciale, al grido di visoni liberi e basta pellicce. Da Antegnate a Isso a Mozzanica, mostrando i cartelli e distribuendo agli, ahimè, ben pochi passanti i volantini dell'iniziativa. Quindi una breve pausa per poi ripartire verso le vere tappe della biciclettata, Capralba e Misano. Un lungo percorso, mi avevano parlato di 12 km, ma a me sono sembrati almeno 30, attraverso i sentieri di campagna, in un silenzio rotto solo dal nostro passaggio rumoroso, dai latrati dei cani e da qualche commento dalle finestre, ma dove si poteva percepire anche altro. A fatica cercavano di raggiungerci le grida dei maiali rinchiusi nelle porcilaie, gli sguardi disperati dei vitelli ingabbiati in minuscoli box lontani dalle loro madri, destinate alla continua produzione di latte. Ad ogni svincolo un altro allevamento, ad ogni angolo un nuovo luogo di sfruttamento, ad ogni chilometro percorso, il nostro sgomento di fronte a una logica di violenza continua che si estende a macchia d'olio senza arrestarsi. Poi eccoci a Capralba, nel feudo della famiglia Boccù. È qui il maggior allevamento di visoni d'Italia, da tempo nel mirino degli animalisti. La vediamo da lontano l'enorme fabbrica di animali da pelliccia. La polizia e i carabinieri ci tengono a debita distanza, ma gli slogan e i campanelli risuonano più forti, ricordando che la protesta continuerà fino alla chiusura. Parte alla volta della meta finale, Misano, dove un altro allevamento si è da poco affiancato a quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, incrementando quella che è ormai diventata a tutti gli effetti una strategia locale. Ancora una volta la polizia non ci lascia avvicinare, possiamo solo gridare la nostra rabbia, la nostra frustrazione, lì, solo a qualche metro da quegli animali che vorremmo tutti liberi, liber selvadec, liberi e selvatici. Roberta Marino, inviata ad Antegnate Misano per Restiamo Animali. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Siamo di nuovo in compagnia del nostro indagatore dell'incubo, Dylan Dog, l'affascinante personaggio dell'omonimo fumetto uscito dalla testa di Tiziano Sclavi per la Bonelli Editore. Il numero questa volta è l'82, uscito addirittura nel lontano 1993. E questa volta abbiamo a che fare con un incubo che non ha direttamente a che vedere con gli animali, ma chi ha ormai la testa antispecista non farà fatica a riconoscerci molte tristi analogie. Personaggio principale accanto a Dylan è Johnny, soprannominato Johnny Freak, Johnny lo strano, e da qui il titolo dell'albo, appunto Johnny Freak. Johnny viene trovato da Dylan in un deposito di attrezzi. In realtà è Botolo, il randagio amico di Dylan, e testimonia insieme a lui delle tante campagne estive contro gli abbandoni degli animali, ad accompagnarci l'indagatore, affinché questi aiuti il povero Johnny. Dylan si accorge subito che qualcosa non va, Johnny non ha gambe e pare non riuscire a parlare. In ospedale i medici non possono far altro che constatare che le gambe non sono l'unica cosa che gli manca. Mancano anche un rene e un polmone e a quanto pare, quando sono stati asportati, gli organi erano sanissimi. Nonostante le mancanze di Johnny, compreso il fatto che il poveretto non pare essere in grado neanche di sentire, lui si esprime benissimo in altri modi. È un grandioso disegnatore e un ottimo musicista. Dylan non può fare altro che portarselo a casa, aspettando che, qualora esista, la famiglia si faccia avanti. E la famiglia non tarda ad arrivare. Un giorno si presentano a casa dell'indagatore due distinti signori che dicono di essere i genitori di Johnny. Secondo la loro versione, Johnny sarebbe stato rapito quando era piccolo. E Dylan non può far altro che lasciare che Johnny torni a casa, in una villa immensa dove spera non gli mancherà nulla. Certo, quelle cicatrici. E infatti è proprio adesso che comincia l'incubo. All'appello della famiglia manca il fratello di Johnny, bello, forte, prepotente, così diverso dal Freak. Ha un'altra cosa diversa da Johnny, è malato da quando era piccolo, di una malattia degenerativa che gli distrugge via via gli organi. Prima le gambe, poi il rene, poi il polmone. E allora che fare? Facile se si ha a disposizione un individuo debole e remissivo che per un po' d'affetto sarebbe capace di fare di tutto. Forse si cominciano a capire le analogie adesso. Insomma, Johnny era stato negli anni per il fratello una banca di organi e tessuti, il fratello debole ma sano sacrificato per quello prepotente ma malato, che solo grazie al primo può sopravvivere. L'epilogo è scontato in una società in cui il più prepotente, che è anche quello paradossalmente più protetto dai genitori e dalla società, vince. Johnny, come ultimo dono, darà la vita al fratello, sotto forma di cuore. E allora a me vengono in mente milioni di animali umani e non, uccisi per permettere a pochi di fare il proprio comodo, uccisi per i loro organi, per le loro membra, per il loro manto o anche solo per divertimento, uccisi in nome di una falsa scienza, violentati per permettere ai pochi di vivere la vita pensando solo al proprio interesse, gola, moda, sport. Mi si potrebbe dire che penso sempre agli animali. Io credo che le stesse considerazioni possano essere fatte per gli animali umani. Johnny d'altronde è umano, più sfortunato perché è nato nella parte sbagliata di mondo. E allora non posso che ringraziare, non soltanto per essere dalla parte giusta del mondo, ma anche di non essere come il fratello cattivo e di assomigliare un po' a Dylan Dog. Sostiene Vallauri. In Piazza Santo Spirito e nella ex chiesa di Santa Monica, in via Santa Monica 6, è in corso la piazza tematica e il convegno non stop organizzato da Restiamo Animali con numerose altre associazioni animaliste e ambientaliste. Non è fra noi, per impegni precedentemente assunti, il professor Luigi Lombardi Vallauri, al quale però vogliamo chiedere via radio un contributo sul tema della caccia, sul senso della caccia nella società di oggi, sulla possibilità di immaginare una società che fa a meno di questa pratica. Questo è un po' lo spirito anche della nostra iniziativa. Ma io nella caccia vedo due cose. Una cosa che mi sembra bella e interessante e una che mi sembra brutta e non interessante. Cioè una cosa che capisco e una cosa che non capisco. Quella bella e interessante è l'osservazione astuta, esperta dell'animale selvatico. Saperlo avvicinare, guardare, il watching. Catturarlo con la percezione acuta, stupita, deliziata, eventualmente fotografarlo, disegnarlo, descriverlo letterariamente e magari non col solo sguardo, anche con una interazione incuriosita, perspicace, magari amorevole e forse da entrambe le parti. Anche noi incuriosiamo gli animali, ci guardano. Deve essere bellissimo toccare, farsi, lasciarsi toccare. Io ho passato Mi sono sdraiato in mezzo a un branco di cavalli neri di altura, a 2500 metri nelle nostre montagne, e sentivo passare su di me, direi, le onde elettromagnetiche delle loro interazioni. È stato bellissimo. Poi incontro marmotte, quando ancora ce ne sono, camosci, qualche stambecco nelle mie gite, nei miei ritiri Milarepa. La cosa brutta, quella che non capisco, invece, è uccidere l'animale. Non è molto meglio vederlo vivo che vederlo agonizzante o morto? Non è molto meglio mettersi una maschera e osservare le trote pinneggianti controcorrente piuttosto che tirarle fuori con amo e ardiglione e lasciarle dibattersi a morte e asfissiare in un cestino? Che gusto c'è? Che piacere si prova a uccidere? D'accordo, ci vuole abilità, ma ce ne vuole almeno altrettanta per propiziare gli incontri non violenti di cui parlavo prima. Quindi, in conclusione, una società senza caccia e pesca, cioè una società meno violenta, meno sanguinaria, mi sembra più bella, più spirituale e più intelligente. Mi sembra che ci sia molto da guadagnare e niente da perdere. Sul piano giuridico, un tempo sostenevo che la caccia è più crudele della mattazione perché non c'è lo stordimento previo. Però, prendendo nell'insieme la caccia e la mattazione, con tanto di allevamenti intensivi, io mi chiedo se invece non bisogna invertire la gerarchia. Nessuna delle due cose è necessaria ormai, rientrano tutte e due nell'uccidere senza necessità previsto dall'articolo 544 bis del codice penale, ma sappiamo che poi il diritto stabilisce incredibili eccezioni in nome delle leggi speciali, per cui cacciare e pescare non è uccidere, per il momento ci dobbiamo rassegnare. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. Partiamo con un articolo di Margherita D'Amico pubblicato dalla Repubblica il 21 ottobre scorso E qui veramente si tratta di qualcosa di preoccupante. Il titolo è questo: Doppiette e trivelle, l'ultimo assalto all'oro verde d'Italia. Due leggi per sfruttare i parchi. Ambientalisti in rivolta. Si tratta di una proposta bipartisan di PDL e PD. Si tratta dell'ennesima strategia di cosiddetta, fra molte virgolette, valorizzazione, scrive Margherita D'Amico. Fra i punti più dibattuti dei testi della discordia, l'avallo a sfruttare, previo canone, suolo, acqua, fauna, all'interno dei parchi o nelle zone limitrofe, delicate aree cuscinetto, veniva da pontili, coltivazione di idrocarburi, prospezione ed estrazione di petrolio, uccisione e vendita di animali. L'articolo riporta fra l'altro l'opinione di Anna Maria Procacci, consigliere nazionale dell'ENPA, la quale dice: ci ritroviamo di fronte a una sbalorditiva visione economicista del territorio protetto. Potremmo aggiungere che si tratta dell'ennesimo caso di applicazione dei dogmi del mercato, della logica neoliberista, anche alla protezione e alla conservazione della natura. Veramente uno sfacelo politico ma anche morale quello che abbiamo di fronte. In questa lotta contro questa legge, che appunto è in corso di approvazione in Senato con il consenso dei due maggiori partiti al momento al governo insieme, si sono schierate associazioni come il CTS, FAI, Italia Nostra, LIPU, Mountain Wilderness, Pro Natura, Touring Club, WWF, EMPA e LAV, ambientalisti e animalisti necessariamente insieme. Dal Corriere della Sera dello stesso 21 ottobre prendiamo dalla pagina dei commenti l'articolo di una firma autorevole, Jeremy Rifkin, saggista molto noto fra l'altro per il suo libro Ecocidio. Jeremy Rifkin, in questo articolo intitolato Le inutili sofferenze degli animali, si schiera a favore della campagna Stop Vivisection in corso in tutta Europa. Si tratta di raccogliere 1 milione di firme per proporre una legge in totale contraddizione con la direttiva sulla sperimentazione animale recentemente recepita anche nel nostro paese. Un'altra notizia abbastanza sconvolgente sulla Repubblica ancora del 21 ottobre riguarda la cosiddetta Panda Economy. Proprio questo è il titolo, la Panda Economy che aiuta la crescita. Se parliamo della Cina e della pratica che i dirigenti politici e i manager cinesi utilizzano al momento di concludere affari. L'invio, una sorta di regalo, di panda al paese con il quale hanno stretto un accordo commerciale. Visetti in questo articolo mostra una totale indifferenza rispetto alle esigenze del panda e alla loro soggettività, alla loro individualità, alla loro sofferenza. Li considera, sposando in pieno l'atteggiamento dei dirigenti cinesi, come degli oggetti, una materia utile per condurre affari e per portare avanti una diplomazia. Scrive ad esempio Visetti che questi panda favoriscono il raggiungimento degli obiettivi, ma sono pure una miniera d'oro. La sensibilità animalista evidentemente deve ancora fare breccia in certi ambienti giornalistici. Ancora dalla Repubblica, questa volta del 20 ottobre, prendiamo 2 pagine davvero esemplari. Il titolo è Selvaggina ma non troppo. Sono 2 pagine dedicate a piatti a base di animali selvatici. Leggiamo il sottotitolo di questa terribile doppia pagina. Mangiamo caprioli, cinghiali e fagiano da 2 milioni di anni. E nonostante le doppiette siano sempre meno, i ristoranti non resistono al fascino del selvatico. Così, fra pallottole in rame e abbattimenti selettivi, la mira è un po' più giusta. L'articolo di Licia Granello è da manuale delle campagne cosiddette di carne felice, un tentativo cioè di placare i sensi di colpa e le code di paglia di tanti consumatori rispetto agli animali che vengono uccisi, in questo caso i selvatici. Citiamo un brano di questo articolo che ne è una chiara dimostrazione. Scrive Granello: al di là dell'avversione alla caccia, che coinvolge la gran maggioranza del paese, dovrebbe comunque valere il concetto di caccia di selezione, ovvero l'abbattimento degli animali che per età, sovrannumero, salute, mettono a rischio l'equilibrio di fauna e paesaggio, già scompensato da inquinamento e cambiamenti climatici. È la classica spiegazione che i cacciatori pretenderebbero di dare alla loro attività, ma sappiamo quanto sia falsa fin dalle origini. Questi squilibri nella presenza di alcune specie animali nei nostri boschi sono stati causati principalmente dai cacciatori stessi, che poi si propongono come solutori dei problemi che hanno creato. E anche Licia Granello sembra dimenticare che gli animali selvatici, dei quali fornisce numerose ricette, sono soggetti di una vita, sono individui che non meritano il trattamento che gli riserviamo. Chiudiamo con 2 notizie che ci paiono interessanti. Una è una curiosità. Dal Corriere della Sera del 19 ottobre, Pablo, il gatto che in un anno ha attraversato la Gran Bretagna. Scomparso da Londra, è stato ritrovato in Scozia. Dopo un viaggio di 720 km, ha scelto una banca come nuova casa. Infine, dalla Repubblica del 23 ottobre, la notizia: animali al ristorante, così cade un tabù. Dopo spiagge alberghi, la rivoluzione pet friendly si estende ai 320.000 bar di esercizi d'Italia. Chiunque potrà entrare in un locale senza dover più parcheggiare fuori l'amico a quattro zampe. È sicuramente un miglioramento, ma certamente i cani al ristorante si divertono poco. Speriamo quindi che almeno i pasti siano brevi. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.